Iniziamo quindi a affrontare questo argomento da uno dei quartieri di Roma, da Trastevere. C'è un articolo sulla versione online di Repubblica, è un articolo di ieri l'altro, del 21 gennaio. Risse, scippi e pestaggi, Trastevere ostaggio della movida violenta. I residenti, i passanti vengono seguiti e colpiti con un pugno. Roma ha mostrato il suo volto peggiore nelle notti del fine settimana. Da San Lorenzo al Pigneto, passando per Trastevere, le cronaca raccontano di risse, aggressioni, scontri e rappresaglie, con la movita costretta a ritirarsi per lasciare il passo alle ambulanze e alle camionette delle forze dell'ordine. Così i residenti di Porta Tiburtina hanno ancora nelle orecchie il rumore delle sirene che hanno fischiato per due notti consecutive a causa della guerriglia tra giovani italiani e pusher nordafricani. E qui già, come dire, nell'affrontare la questione di San Lorenzo la si afforma in un modo curioso, perché i giovani italiani sono solo giovani, mentre i nordafricani sono pusher, quindi insomma spacciano. Non è andata meglio cioè lo strano non è sottolineare che questo gruppo di nordafricani spaccia, è così identificare genericamente come giovane l'altra parte della rissa. Non è andata meglio a Trastevere, dove la presidente del comitato di quartiere, Dina Nascetti, lancia l'allarme: siamo infestati dagli spacciatori. Venerdì c'è stata una lite in piazza Trilussa, sabato su Ponte Sisto hanno ferito con il coltello un ragazzo pur di portargli via la collanina. Ma quello che è peggio è che è sbarcata anche a Roma la moda del knockout. Si tratta del gioco nato negli Stati Uniti, che consiste nello stendere con un solo pugno i passanti. I ragazzi l'hanno appresa dai tanti video che circolano su internet e adesso qualcuno inizia a menare le mani. Insomma, questo articolo fa un grandissimo guazzabuglio, parlando di cose molto diverse, mettendole insieme. Si parla dello spaccio, si parla invece di questo gioco che giovani avrebbero imparato su internet, si parla poi, appunto, si mette insieme San Lorenzo, il Pigneto, Trastevere, si parla delle nottate di San Lorenzo dicendo che ci sono state risse, guerriglie addirittura tra giovani italiani, gli italiani hanno come caratterizzazione solo la gioventù, e pusher nordafricani, mentre i nordafricani si dice insomma che attività fanno. E si parla delle notti di venerdì e sabato scorso, e poi si arriva a tutta una serie di dichiarazioni che possiamo credo anche saltare, su persone che vengono intervistate per strada e che raccontano che al nipote è stato rubato una cosa, l'altro è stato fermato nel vicolo, eccetera. Che poi sì, ci sono, sì, che poi peraltro forse sì, noi le saltiamo, però poi in realtà sono quelle più interessanti, nel senso che la percezione, quello che succede alle persone è comunque importante a livello individuale, nel senso che nella loro vita quello che ti succede per strada è importante. E poi c'è almeno il beneficio dell'inventario, che le persone quelle cose le hanno vissute. Poi come vengono selezionate e come su questo viene costruito il meccanismo, diciamo, dell'informazione è un po' più complicato. Dicevamo, questo era l'articolo che fa un po' il sunto di queste vicende. Poi è uscita quest'altra cosa interessante su Testaccio. Testaccio, il rione simbolo della romanità, è la nuova Chinatown. Dopo aver conquistato l'Esquilino, il quartiere più multietnico, la comunità cinese sta rilevando locali e magazzini all'ombra del Monte dei Cocci. Chiudono le attività storiche che non reggono la crisi e non sostengono gli affitti, che di anno in anno diventano più cari, e aprono negozi orientali che vendono di tutto un po', ma anche sale scommesse e di slot machine. Sfrattato il Roma Club di Testaccio in via Branca nell'ormai lontano 2009, qui un po' fa un po' di storia. Testaccio sta cambiando la sua identità, non c'è più il cisternino, per ora le mura non sono ancora state affittate, ha finito la sua carriera, ha iniziato nell'85 la casa del gambero, il carattere storico e la sua peculiarità, e ormai la seconda Esquilino romano. Abbiamo avviato una mappatura di ogni locale per poter così intervenire per salvare Testaccio. Insomma, questo è Testaccio improvvisamente in mano ai cinesi. Il degrado di Testaccio è perché sono arrivati i cinesi, che voglio dire, è curioso, perché Testaccio lo conosciamo tutti, e da un punto di vista, diciamo, di quella che era la movida, la vita notturna, i problemi con il quartiere, era arcinoto, però si va a puntare su un aspetto particolare. Sembra quasi, ma questa cosa la troveremo confermata, che gli immigrati, finché gli immigrati o le persone extracomunitarie, le persone che vengono da altri paesi, finché stanno nelle cucine, nei sottoscala dei locali, a pulire i piatti, a servire a tavola, a scaricare le casse, insomma finché sono sottoposti alle rigide discipline del lavoro subordinato, non danno fastidio. Se si mettono alla cassa dei locali, cioè se diventano imprenditori, improvvisamente è un problema, perché cambia il carattere storico. Il carattere storico cambia da secondo di chi sta alla cassa dei locali. Insomma, anche un modo curioso di guardare il problema. E questo è un po' il quadro. L'altro articolo che è uscito qualche giorno fa, che poi specifico, non so se è lo stesso che hai letto tu, spaccio e violenza, il Far West di San Lorenzo, questa dovrebbe essere La Repubblica, ci riporta una cronaca che abbiamo già raccontato, la notte degli scontri e via dicendo, tutto quello che è successo. Noi adesso, prima di sentire qualche interlocutore telefonico, ricordandovi che comunque su questi temi ci fa piacere se ci chiamate allo 06 49 17 50 e dite la vostra, vi facciamo ascoltare una cosa e poi vi leggeremo anche l'articolo che è uscita giusto ieri sull'Huffington Post, questo sito di informazione che in questo momento va per la maggiore tratta in diretto collegamento con La Repubblica, un po' di approfondimento delle questioni, ospita molti blog, diciamo, del momento, da blog di tutti i tipi, dall'animalista all'intellettuale, passando anche per il militante dei centri sociali, l'attivista per la casa che scrive sull'Huffington Post. In particolar modo l'articolo è di Laura Eudati e riguarda, il titolo è: degrado San Lorenzo, centri sociali si scoprono, legge e ordine. Adesso, se ci aiuta la regia, mandiamo quest'audio, ve lo sentite e poi proviamo a parlarne un attimo, perché gli spazi pubblici in generale. Sì, ci siamo. Lo spaccio è appunto gli spazi pubblici in generale, anche i marciapiedi. Lo spaccio è. No, mi sa che non riusciamo a sentirlo. Io non lo sentivo. Lo sentivi? Ah, ok, l'unico che non lo sentivo ero io. Allora lo rimandiamo. Gli spazi pubblici dall'inizio. In generale, anche i marciapiedi. Lo spaccio è appunto uno degli aspetti dove, appunto, trasformandosi il quartiere in un laghetto di pesca artificiale, qualcuno immagina di poter, appunto, visto che transita così tanta gente, poterne venire a fare un po' quello che vuole. Nel disprezzo però, purtroppo, di chi ci abita e di chi lo vive, perché poi la percezione del San Lorenzino dello spacciatore è nulla se questo non produce appunto problemi di insicurezza, violenza e pericolosità nei confronti della propria vita. E i ragazzi, i bambini? Beh, i bambini è l'aspetto più brutto, più da difendere oggi. I bambini si sentono vivere in un quartiere brutto e lo descrivono anche purtroppo ad altri bambini che magari non sono del quartiere, negli ambiti appunto della loro vita quotidiana, quando vanno a pallone, quando vanno a scuola, magari frequentano altre scuole, magari poi escono da questo quartiere e vanno al liceo, a volte si vergognano pure di dire che sono di San Lorenzo. Questo non va bene, perché loro hanno il diritto di vivere il quartiere dove sono nati, e non siamo ospiti del nostro quartiere, ma siamo appunto abitanti, residenti, nati e cresciuti dentro questo quartiere, e non ci meritiamo e non meritano i nostri bambini di essere trattati, soprattutto dalla gente che lo viene a frequentare, come appunto ospiti da disprezzare o addirittura da relegare nelle proprie case, mentre qualcuno fa i propri porci comodi, strilla, fa le pipì sopra i propri portoni, ci rompe le bottiglie davanti i portoni di casa, o addirittura entra dentro i portoni e fa, tra virgolette, l'amore sulle scale dei portoni dei nostri palazzi. La polizia ha una percezione della sicurezza completamente inversa a quella che servirebbe. Il problema vero, reale della sicurezza, appunto, è dal tramonto all'alba. La polizia c'è dall'alba al tramonto. Devo dire che dobbiamo dire che questa intervista, che è un'intervista video realizzata proprio qui in Via dei Vosci davanti al 32, ci colpisce molto. Ci colpisce, ci fa interrogare, no? Nel senso, anche proprio su un piano linguistico. Adesso, al di là delle singole questioni, l'articolo poi è lungo e riporta tutto un dibattito, vedremo se riusciremo ad approfondirlo, però certamente ci troviamo di fronte a affermazioni che ci lasciano veramente perplessi. Cioè, proprio la settimana scorsa qui a San Lorenzo c'è stata una manifestazione per denunciare pratiche e una realtà che sicuramente è fatta anche di una generale mercificazione e gentrificazione del quartiere, sicuramente di un abuso, di un uso assolutamente devastante degli spazi pubblici di questo quartiere per il profitto privato dei locali. E però, insomma, voglio dire, non ci aspettavamo, devo dire la verità, non ce l'aspettavamo, io non me l'aspettavo che una voce che è anche stata una voce di questa radio potesse esprimersi con concetti, oserei dire così, rozzi, proprio rozzi. Addirittura si denuncia qualcuno che fa l'amore nei portoni, che voglio dire, adesso sicuramente può essere un problema. Questo modo di porre il problema sui bambini, i bambini deboli, questo modo e soprattutto l'incapacità di porre sul terreno la storia, il percorso di questo quartiere negli ultimi anni, il ruolo che hanno tutte le componenti di questo quartiere, i cittadini stessi, gli interessi economici, ma non solo quelli dei locali, anche quelli dei residenti, dei locali commerciali, quelli dei residenti. Che cosa ha significato, come dire, lo straordinario cambiamento di questo quartiere? E ci lascia basiti anche l'affermazione per cui il San Lorenzino medio, a lui lo spaccio non è che gli crea tanto problemi, che voglio dire, non gli crea problemi fin tanto che non si trasforma in violenza. È una lettura dello spaccio curiosa, nel senso che lo spaccio, le sostanze, l'abuso delle sostanze si è sempre accompagnato a comportamenti, diciamo, invasivi. Capiamo che probabilmente fa riferimento a un uso delle droghe leggere, a una capacità di costruire una logica antiproibizionista, ma certo tutto l'impianto e il ragionamento è estremamente debole. Non so tu come la vedi. Sì, lo vedo molto debole. Leggo anche così, sempre dallo stesso articolo, affermazioni per cui si disegna una San Lorenzo sinceramente con dei tratti anche eccessivi. Insomma, si dice che si deve accompagnare la figlia sedicenne in palestra perché ha paura, perché si susseguono decine di scippi, furti, borseggi, molestie sessuali, spaccio di marijuana e droghe pesanti. È questo l'elenco, insomma, che viene sottoscritto. Insomma, noi ci giriamo quotidianamente in questo quartiere anche con una certa tranquillità, nel senso, non è che poi abbiamo paura a uscire per la strada. Insomma, anche questo gioco sulla paura è come dire un ragionamento, per usare la parola che usavi te, anche sempre piuttosto rozzo, perché paura rozzo ma estremamente pericoloso, perché se noi paura, mettiamo degrado mettiamo tutto insieme mettiamo insieme le campagne che si stanno aprendo in questa città, sulle trasformazioni delle zone, sulle zone in trasformazione in cui la presenza di soggetti chiaramente diversi, questa rivendicazione un po' comunitaria, quasi nativi, mi fa venire in mente un po' quel film su New York, com'è che si chiamava, famosissimo, no? In cui c'erano i nativi contro che erano gli immigrati. Gangs of New York, no? Che c'erano i nativi, conigli morti, i nativi contro i conigli morti. Sì, sembra siamo un po' nella palude, siamo nella palude della guerra tra poveri da questo punto di vista. Dopodiché, per noi è importante che chi abita, chi vive San Lorenzo quotidianamente e vive il disagio di una situazione complicata, si esprima, prenda parola e dica delle cose. Ci lascia un po' più perplessi l'idea, e nell'articolo troviamo altre voci, tra cui anche voci che fanno riferimento agli assalti frontali, che insomma sono eredi musicali dell'Onda Rossa Posse, di questa radio, di un certo modo di guardare la strada, di capire certi fenomeni, ma anche di saper leggere quello che succede. E soprattutto non si dice niente quando si fa riferimento alle forze dell'ordine. Il problema è che non ci stanno la notte e vengono il giorno. Mi sembra una lettura piuttosto superficiale, al di là della comprensione che può essere capita, quando storicamente in questo quartiere, in tutti i quartieri, il ruolo delle forze dell'ordine nelle loro diverse articolazioni è sempre stato e sempre sarà e continua a essere un ruolo ambiguo dentro le dinamiche dello spaccio e della malavita, perché diciamocelo con chiarezza, la maggior parte delle persone che si danno al malaffare, alla malavita, hanno una contiguità con le forze dell'ordine, viva Dio, anche perché spesso finiscono in carcere, spesso stanno in stretta relazione con le forze dell'ordine, spesso vengono tollerate, certi traffici vengono tollerati, certi altri traffici no, certe cose si possono fare, certe cose non si possono fare, niente succede per caso. da tempo le politiche criminali non sono né politiche di contenimento né politiche di prevenzione, ma sono politiche di gestione dentro il grande cappello della paura, con il degrado, con l'insicurezza come collante ideologico di scelte politiche. L'articolo è anche interessante, noi vedremo se riusciremo tra poco, anche se c'è rimasto veramente poco tempo, perché c'è rimasto circa un quarto d'ora, ma forse possiamo anche allargarci andare un po' pochino più avanti, a sentire, se riusciremo a sentire il vice sindaco Luigi Nieri, che nello stesso articolo dice una cosa, insieme a tante cose meno, diciamo, apprezzabili, però fa un'affermazione precisa sulle scelte politiche che si devono fare rispetto a questo, perché si invoca direttamente o indirettamente nell'articolo la ripresa delle politiche urbane e da parte del comune proibizioniste, le delibere sulla chiusura dei locali, le delibere sul vetro, le delibere sull'alcol fuori dai locali, e Nieri dice chiaramente: noi questa cosa non la facciamo, non la facciamo perché non ci interessa. Probabilmente non lo dice esplicitamente, però dice: noi non sarà la giunta Marino a fare le delibere contro il degrado che impone la chiusura dei locali, impone queste cose qui, perché se c'è un problema criminale, può essere un discorso condivisibile o meno, se ne occuperà la polizia e la magistratura, se c'è un problema di repressione tra virgolette è un problema loro, ma non è la politica che può diventare. Non vogliamo diventare il sindaco sceriffo di Roma. È chiaro che c'è un gioco di attacco politico su diversi fronti. Su questo quadro qui secondo me bisognerebbe ragionare un po'. Noi forse ci prendiamo solo un attimo di, o se volete aggiungere qualcosa. No, non molto, ma appunto il discorso che si faceva prima, il degrado, la paura, insomma, anche da parte di chi la fa questa analisi e la propone, insomma, un sito letto come l'Huffington Post, cioè, poi bisogna anche riflettere sul fatto che questo porta solo a un risultato, a un tipo di intervento normalmente, cioè porta alla polizia, alle, o perlomeno alle telecamere, in genere sono queste gli interventi, le apparenti invocano. Risposte, secondo me queste sono le apparenti risposte. Quando c'è l'allarme sicurezza c'è più polizia, più caserme, più controllo, ma la risposta vera è quella di generare la paura, per cui le persone stanno dentro casa, non escono. Certo. Le gerarchie di chi sta sopra e chi sta sotto devono essere mantenute, devono essere le gerarchie tra chi ha diritto e chi non ha diritto, chi è escluso e chi è incluso dentro la città, e su questo è la grande debolezza, mi sembra, del ragionamento che Rino Fabiano fa dentro queste affermazioni e che c'è in tutto l'articolo. Poi noi siamo disponibili a sentire punti di vista diversi su questo, ma la grande debolezza è proprio su questo, cioè al di là della scelta che queste politiche portano a un razzismo istituzionale, a forme di volontà di acuire dei meccanismi come i CIE piuttosto che queste vicende qui, l'esito finale è quello di ristabilire una gerarchia, di non fare alzare la testa a chi sta sotto, sostanzialmente, con anche un po' la come dire, questa sorta di leggenda per cui oramai a Roma comandano gli immigrati, oramai comandano, fra un po' diranno comandano, scusa, no, il termine non lo posso usare, ma io uso, diciamo, i diversi, perché a Roma si fa l'arcobaleno tricolore su Via del Corso e non si fa, cioè non si fa più il tricolore ma si fa la bandiera arcobaleno, noi poveri romani sani, padre, madre, figli, lavoratori silenziosi, non ci abbiamo più diritto e i rom ci rubano, cioè tutta questa pappetta, tutta questa roba che poi di cui l'esito finale non soltanto le politiche repressive, che tanto continuano sistematicamente a essere inutilmente inefficaci, c'è forse una telefonata, adesso sentiamo se è per la diretta, ma l'esito principale alla fine è proprio quello di alimentare il meccanismo della gerarchia e, non vorrei dire del profitto, ma sicuramente di chi continua a guadagnare, di chi deve stare sotto e chi deve stare sopra. No, non era una telefonata per la diretta, noi ci prendiamo un attimo di musica e vediamo un po' se riusciamo a approfondire un po' la questione. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Ah, ciao. Ciao. Prima di tutto, complimenti, siete bravi, molto bravi. Volevo dire questo, ma quello che ha detto quel blogger, no? È vero in parte, cioè quasi al 100%, perché io sto a Zionfale, per esempio, e qui non si campa. Ma non perché magari spacciano, che a me non mi interessa. Però con questi torpedoni, cioè sta città di Roma è massacrata, strade, dei caschi continuamente, eccetera. Quello che volevo dire io è questo. Quello che noi possiamo fare a questa gente, no? Alle cosiddette FAFO, forze dell'ordine, forze armate. Devi abbassare la radio, però. Protetti da loro, eh? Devi abbassare la radio. Ah, sì, no, cambio stanza. Quello che noi possiamo fare è contrastarli e direi fare queste cose. Non drogarci, perché non è Giovanardi che ci vuole proibire, ci proibiamo da solo di drogarci perché è dannoso. Cioè, bisogna affrontare la vita da coi denti o alla dentiera mostrandogliela, no? Quindi drogarsi, rifugiarsi nelle droghe o nei farmaci, che poi sono la stessa cosa, mi sembra deleterio. Poi la seconda cosa, non comprare farmaci, non comprare merci griffate, non andare a mangiare la pizza, visto che si è saputo stamattina che questi sono tutti i pizzettari e quanto pare sono tutti i ristoranti, capirai, sono in mezzo di coglioni. Forse non ti sembra un po' esagerato, perché questo noi dicevamo, no? Dicevamo che in generale, provo a interloquire, poi... certo, devi. Dicevamo che un po' poi queste notizie, questo accumulo di notizie, tutti corrotti, tutta mafia dappertutto, poi l'effetto finale di tutto questo è spingere le persone a... starsene a casa, starsene buone al loro posto. Siccome... Beh, ben buone, ti ho detto qual è la guerriglia da fare: non drogarsi, non ubriacarsi, non comprare farmaci, non andare a mangiare la pizza, stare fra di noi, fra gente che rispetta le regole di buon senso, perché non bisogna rispettare le regole dettate da loro, che non sono di buon senso. Dobbiamo da soli darci delle regole di buon senso. Noi deve fare quelli che rompono le regole perché loro sono trasgressori. No, è una stronzata. Noi ci dobbiamo attenere alle regole di buon senso e stare fra di noi. È solo così che gli possiamo fare del male. Altrimenti noi gli possiamo fare niente, perché loro c'hanno l'esercito, l'aviazione, la marina, poi altro, i carabinieri, la polizia, la guardia, capito? Ah no, chiarissimo, loro sono chiarissimo. Armati, noi no. Va però bene, ti ringraziamo. Ciao, grazie. Può obbligare a drogarmi, comprare i farmaci. Non so se sono stata chiara, perché è un discorso lungo. No, chiarissimo, ti ringraziamo. Quindi se tu hai pesce cani, gli levi l'acqua, quelli morono. E come gli si leva l'acqua? In questa maniera che io suggerisco. Non so se c'ho torto o c'ho ragione. Comunque io farò la mia guerra personale. Chi se va unì, si unisca. Va benissimo, da grazie, studi. Ciao. Ciao. No, nel senso che al di là del, insomma, un po' l'approccio un tantino siamo fra di noi, bisognerebbe capire meglio chi sono questi noi tutti insieme, è chiaro che anche il decidere personalmente, individualmente di non collaborare a dei meccanismi che individuiamo come coercitivi, come violenti, come portatori di valori che non rispettano le persone, è una scelta importante, nel senso che la voglia, al di là del costruire insieme dei percorsi politici contro determinati modi di intendere la convivenza, anche il rifiuto è una scelta importante. Il rifiuto che però non deve diventare la scusa per isolarsi, deve essere un rifiuto consapevole, penso che la compagna che ha chiamato questo voleva dire, rifiuto consapevole di tutti quei meccanismi che ci fanno complici di questi meccanismi. Comunque questo è sempre lo 06 49 17 50 per chi vuole intervenire al telefono. L'argomento più o meno l'abbiamo delineato, parliamo dell'allarme sicurezza e degrado nella città di Roma e anche del dibattito politico che in qualche maniera è emerso. Volevamo parlare anche con il vice sindaco di Roma, che però era in una riunione e quindi non ha potuto dirci qualcosa rispetto al ragionamento sui sindaci sceriffi e sulle ordinanze di chiusura dei locali, in generale sulla sostituzione, su questa richiesta pressante alla politica, non si capisce bene di fare cosa, di sostituirsi alla capacità di costruire un tessuto di convivenza attraverso le politiche repressive. Ci sembrava interessante, ne avremo sicuramente delle altre occasioni. Questo allarme sicurezza, fra l'altro, è molto presente sulle pagine online di Repubblica, ma lo troviamo anche sul Corriere, assume dei toni un po' diversi. Roma sporca, caotica, insicura, la caduta di una capitale senza governo. Quello che si vuole arrivare a dire in questo lungo articolo, che mette insieme cose molto diverse, si parla del traffico, del numero di auto, dei pedoni uccisi in un anno, della gestione dei rifiuti, degli abusi edilizi, del fatto che Roma ha più dipendenti, è maggiore il numero dei dipendenti comunali di Roma che degli operai della Fiat, e nonostante questo non funziona nulla, eccetera. Quindi sostanzialmente la linea, insomma, che segue questo articolo è quello di dire che Roma è lasciata a se stessa e che non c'è appunto nessun tipo di governo. Però anche qui, insomma, si arriva poi a parlare delle stesse tematiche, insomma, si aggiunge la spazzatura ed altro, però poi si parla anche appunto di una città lasciata all'incuria, in uno stato pietoso, dove si parla di campi profughi abusivi, per esempio di quello che da anni, leggo, resiste indisturbato sul Colle Oppio, eccetera eccetera. Ma abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, ci senti? Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì, allora, stiamo facendo questa chiacchierata su questo allarme, degrado e sicurezza di Roma, e forse tu c'hai da darci un punto di vista un po' particolare sulla vicenda, su questa campagna di stampa, sui social network. Beh, è interessante, diciamo, ha rilevato da mesi il ruolo di questo blog che è puntato molto sui social media, sui social network, e che occupa, diciamo, buona parte dell'esternalizzazione delle cronache sull'allarme degrado nella città. Credo che molti lo conoscano ormai, si chiama Roma fa schifo, ha una sua filologia, una sua storia, insomma, di blogging, a partire da un primo esperimento sull'Esquilino, brillanti lettere aperte del suo promotore a gente come Mollicone all'epoca della giunta Alemanno, in cui si denunciava l'esibizionismo frocio al Celio sotto Colle Oppio, nella cosiddetta Gay Street, da parte di qualcuno che personalmente, biograficamente, individualmente è perfettamente reperibile, che è il promotore appunto dei blog precedenti di questo, ne è il principale autore, che è stato il primo dei non eletti nella lista civica Rutelli nel 2008, che è incidentalmente un brillante personaggio nel mondo dell'editoria sull'arte e del mercato d'arte a Roma, che ha avuto un ruolo per 10 anni in Exibart, che dirige attualmente Art Tribune. Incidentalmente Art Tribune è stata rilevata, e di qui la direzione di questo personaggio, Massimiliano Tonelli, da un'altra figura piuttosto importante nella storia recente della città. Si chiama Paolo Cuccia, è stato la mente e la direzione della privatizzazione della CEA intorno al 2005, è dentro una fondazione riconducibile facilmente all'Opus Dei, ispirata a Giovanni Paolo II, molto potente qui a Roma, ha presieduto intorno alla grande impresa della nuvola di Fuxas, ma molto altro, comprese le scommesse sul circuito di Formula 1, l'ente EUR SPA. Tutto questo nel frattempo, tra il 2005 e l'ente EUR SPA, lanciandosi o venendo lanciato in una brillante carriera nella finanza italiana, fino, diciamo, a conoscere molto la vicenda Antonveneta, nella sua prima fase. Non ti voglio interrompere perché è interessantissimo. È attualmente padrone di Gambero Rosso e appunto di Art Tribune, e uno degli, diciamo, spoiler della costituzione di think tank intorno alla nuova direzione piddina di Renzi. Prego. Vabbè, tutto si tiene, insomma, alla fine. Tutto torna. Direi di sì, però adesso torna, è complicato. Adesso noi non vorremmo, nel senso, ci sarà magari uno spazio, un tempo per parlarne un po' più in dettaglio. Noi in realtà stiamo facendo una carrellata di tutto. Quello che ci interessava capire un po' meglio era che idea ti eri fatto a partire dagli ultimi articoli di cronaca sulle vicende, diciamo, di strada della città e anche su queste denunce improvvise di strani personaggi che addirittura invece di stare in cucina, cioè gli immigrati, si mettono alla cassa dei locali e quindi strani, no? Personaggi... del mercato della circolazione delle merci anche dell'economia informale, insomma, quelle che muovono. Sì, ma ci sembrava che una cosa che colpiva molto insomma l'immaginario popolare secondo i media era che improvvisamente dalle cucine, dalle cantine, dai trasporti di notte, dai mercati generali, questi strani personaggi con delle fattezze diverse da noi, cioè l'immigrato asiatico piuttosto che magrebino, improvvisamente decide addirittura di assumere dei dipendenti italiani e non sta nascosto, che in generale ci sia, come dire, un tentativo di costruire intorno al degrado di Roma, alla perdita di identità, ai quartieri gentrificati, un discorso che però insomma ci interessava capire meglio che discorso è. Io penso che appunto sia molto importante quello che tu stai enucleando, perché noi rischiamo spesso, insomma, di essere strabici e soprattutto con la testa troppo rivolta all'indietro, ci sembra sempre tutto uguale. È chiaro che noi abbiamo vissuto un solido decennio, insomma, di alternanza del centro-sinistra cosiddetto moderato e del centro-destra direttamente consegnato al post-fascismo di Alemanno in questa città, che ha operato, diciamo, anche un'aggregazione di consensi proprio sulla cattura di tutti i conflitti orizzontali, insomma, depositati dai processi reali imposti sulla città e alimentati attraverso la propagazione di ideologia e di sentimenti razzisti. Però quello sì, che però parli troppo adesso, difficile. Io ti faccio ascoltare una cosa. Adesso... Aspetta, ti faccio ascoltare una cosa, poi dopo, perché parli troppo complicato. Adesso te la faccio ascoltare di nuovo, l'abbiamo già sentita. Che io non seguo. Spazi pubblici in generale, anche i marciapiedi. Lo spaccio è appunto uno degli aspetti dove, appunto, trasformandosi il quartiere in un laghetto di pesca artificiale, qualcuno immagina di poter, appunto, visto che transita così tanta gente, poterne venire a fare un po' quello che vuole. Nel disprezzo, però, purtroppo, di chi ci abita e di chi lo vive, perché poi la percezione del San Lorenzino dello spacciatore è nulla se questo non produce appunto problemi di insicurezza, violenza e pericolosità nei confronti della propria vita. E i ragazzi, i bambini? Beh, i bambini è l'aspetto più brutto, più da difendere oggi. I bambini si sentono vivere in un quartiere brutto e lo descrivono anche purtroppo ad altri bambini che magari non sono del quartiere, negli ambiti appunto della loro vita quotidiana, quando vanno a pallone, quando vanno a scuola, magari frequentano altre scuole, magari poi ne escono da questo quartiere, vanno al liceo, a volte si vergognano pure di dire che sono di San Lorenzo. Questo non va bene, perché loro hanno il diritto di vivere il quartiere dove sono nati, e non siamo ospiti del nostro quartiere, ma siamo appunto abitanti, residenti, nati e cresciuti dentro questo quartiere, e non ci meritiamo e non meritano i nostri bambini di essere trattati, soprattutto dalla gente che lo viene a frequentare, come appunto ospiti da disprezzare o addirittura da, appunto, da relegare nelle proprie case, mentre qualcuno fa i propri porci comodi, strilla, fa le pipì sopra i propri portoni, ci rompe le bottiglie davanti i portoni di casa, o addirittura entra dentro i portoni e fa tra virgolette l'amore sulle scale dei portoni dei nostri palazzi. La polizia ha una percezione della sicurezza completamente inversa a quella che servirebbe. Il problema vero, reale della sicurezza, appunto, è dal tramonto all'alba. La polizia c'è dall'alba al tramonto. Non so se hai potuto ascoltare. Sì, io cercavo di prendere alla larga, non avevo capito che no, ma il punto non è, non ti chiedo di intervenire su questo, ti chiedo di ragionare sul linguaggio, cioè su come... No, io appunto su questo adesso un po' in maniera più esplicita, insomma, vabbè, io dico anche direttamente rispetto al testo, insomma, e alla voce, e a me duole il cuore perché è parte della vita mia, insomma, è non solo disprezzabile questo racconto, ma è anche un po', come dire, suscita pena l'idea di poter inseguire appunto meccanismi che sono molto più ampi e molto più diretti dall'alto, cercando di inseguirne i linguaggi, la narrazione, e poi si finisce col vice sindaco che alla domanda su la posizione della giunta comunale sulla repressione e la militarizzazione del territorio risponde: no, ma noi vogliamo l'intelligence. Insomma, noi non siamo riusciti a sentirlo, l'abbiamo cercato, ma era in una riunione. Perché in realtà, insomma, su questo però provo a passare. Sì, sì, sì. In realtà quel testo sì, invoca l'intelligence, ma questo, quando l'intelligenza politica cade, cerca sempre l'intelligence da un'altra parte, presso i magistrati e i poliziotti. Però l'affermazione no alle ordinanze, no al proibizionismo degli sceriffi comunali, invece è più interessante. Quella è molto più interessante, ma d'altra parte anche quello che, insomma, dice la voce registrata e appena da voi rimandata, in un pezzo ovviamente condivisibile, cioè l'analisi che poi è stata esplicitata anche da altri nell'articolo a cui l'intervista video è riferita sulla Huffington Post, il fatto che sia stata, che ci sia un interesse oggettivo anche dell'amministrazione della repressione e del controllo nell'individuare distretti, no? In cui in qualche modo l'economia informale sia circoscritta e controllata, per l'appunto, e ne siano controllate anche le concatenazioni dei processi sociali. Ma questo è chiarissimo, e il punto è esattamente come si pone: se l'idea è quella, insomma, di entrare così in competizione, ma molto in coda, molto in fondo alla coda, molto in fondo alla fila dei clientes di questa narrazione, alla narrazione per cui va restaurata, bisogna tutelare una originalità locale, una buona educazione persino degli spacciatori locali, insomma, no? Agghiacciante per certi versi. Al confronto dei nuovi venuti, insomma, qui non si va da nessuna parte, ma non si va da nessuna parte esattamente rispetto al problema che pure si enuncia. Allora, il punto è affrontare, diciamo, i livelli di conflitto necessari e anche la costituzione di complicità, la rottura delle separazioni necessarie a rovesciare la dinamica della gentrification, ma non solo, perché la gentrification c'entra anche poco, insomma, appunto c'entra molto di più, in maniera molto più rilevante, la cartografia di un controllo della città, di un controllo dell'economia reale della città, dei processi sociali reali. Ma questi sono problemi grandissimi su cui bisognerebbe interrogarsi sui propri limiti storici, sulle proprie sconfitte, sullo scacco che si subisce quando si assiste, diciamo, a una scomposizione di quelli che dovrebbero essere i soggetti di riferimento, come si diceva una volta, e prendere, diciamo, parte alla guerra orizzontale, che è il fondamento del processo di controllo, del dispositivo di controllo, è veramente di una miopia incredibile. E io penso che questo sia assolutamente da fermare, da disarticolare, e bisogna riportare la verità, insomma, su quello di cui si parla. San Lorenzo, così come tanti altri luoghi della città, il problema di espellere dei corpi estranei che farebbero comodo al potere, in quanto scompongono invece una tenuta presunta di soggetti tradizionali, ma non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Io dico, mi pare abbastanza evidente, insomma, anche rispetto alla vicenda di coinvolgimento che insomma dovrebbe parlare anche molto più sostanzialmente, parliamo dei bambini, parliamo pure insomma, delle donne, delle compagne, non delle donne in generale, delle compagne del 22 che hanno subito nel corso di mesi e degli anni attacchi che non possono essere riferiti a questa descrizione dei problemi e dei soggetti. E allora su questo bisogna appunto dirsi la verità e insomma anche un po' schierarsi, perché perché va bene che siamo in campagna elettorale permanente, ma appunto poi però bisogna anche dirsi da che parte si vuole stare. No, anche perché sai, a me viene in mente, non so se ti ricordi quelle immagini dopo la primavera tunisina, no? Dell'arrivo dei migliaia di tunisini, ma anche non tunisini, che sbarcavano e che sono stati in qualche maniera, no? Era tale la massa per cui li vedevi transitare sui treni che andavano a nord, si fermavano alla stazione, giovanissimi, che erano, come dire, il soggetto... per certi versi anche di un approccio politico, di un tentativo di ragionare sulla sponda sud del Mediterraneo, su che cosa significava, certo, la solidarietà, certo, che andava portata. È chiaro che tutto questo porta insieme con le nostre sconfitte, porta anche insieme il fatto che queste persone poi non sono dei santi, non c'hanno l'aureola, vengono e si trovano dentro una società feroce in cui lo spazio per sopravvivere è limitatissimo, e laddove non c'è una risposta collettiva c'è il tentativo di dare senso alla propria vita e riuscire a sopravvivere. Molti, credo che molte delle persone che alimentano forme diverse di spaccio organizzato e che sono extracomunitari dentro questa città, perché è evidente a tutti, non li stiamo criminalizzando, è proprio davanti agli occhi di tutti, sono la seconda ondata di chi è arrivato qui comunque alla ricerca di un futuro diverso, comunque a partire dalle dinamiche drammatiche, e ha trovato delle barriere, ha trovato anche barriere di tutti i tipi, ma ha trovato anche l'incapacità di costruire una risposta collettiva ai propri bisogni. Poi, assolutamente questo, penso, ma anche una dinamica di trasformazione. Io trovo allucinante quando si dice che le giovani compagne, questo lo dice l'articolo, quindi è imputabile alla giornalista, hanno cambiato modo di vedere gli immigrati a cui prima sorridevano, adesso hanno scoperto che sono maschilisti. Appunto, e così poi si finisce a titolare, i centri sociali scoprono la legge e l'ordine, ma poi anche scrivendo il contrario quando si riporta la cronaca, però. Ma queste sono cose a cui siamo abituati. Il problema è interrogarci un po' di più, insomma, su questo limitatissimo, e sarebbe il caso ogni tanto di ricordarsi le misure reali, insomma, noi, no? Noi dovremmo essere abituati da decenni a non considerare nessun soggetto salvifico, portatore in sé di una purezza o di una capacità organica, diciamo, di scomposizione dell'ordine costituito e dei problemi che affrontiamo quotidianamente. È evidente che insomma, cioè, di che stiamo parlando? Qui parliamo di un grandissimo esercizio di riserva messo in movimento a tutti i livelli della produzione, che insomma, no, è spurio dalla sua origine nella migrazione e tanto più nella cosiddetta integrazione della metropoli. Ma queste cose noi le dovremmo avere presenti, diciamo, a monte, no? Sai che a me viene in mente una cosa, no? Un'esperienza. Ci sono decenni di esperienza in Francia delle resistenze sociali e della solidarietà sociale rispetto ai macroscopici problemi che questa cosa porta. Ma appunto, quando poi ti scoppia in queste forme brutali, uno, la prima interrogazione che si fa è su se stesso, il decantato rapporto col territorio, il radicamento col territorio, se porta alla contrapposizione di un territorio precedente all'arrivo di questi soggetti con questi soggetti nuovi venuti, è una sconfitta che va registrata, è un limite di comunicazione, di comprensione, sì, di composizione del territorio. Ti dicevo che a me veniva in mente un'esperienza fatta diversi anni fa a Brescia, in occasione di una delle tante feste di che fanno a Brescia tutti gli anni, un festival che fa Radio Onda d'Urto per autofinanziarsi, un festival enorme nel nord Italia con decine e decine di migliaia di persone, ma quello che mi colpì di più era fuori dal recinto del festival, che era enorme, che vedeva decine di migliaia di persone, questi accampamenti esterni di immigrati. Ma la cosa che mi colpiva di più è che stavano lì per spacciare sostanzialmente, e che quando parlavi con i compagni ti raccontavano della contraddizione del fatto che molti erano, era prima della crisi, erano operai che lavoravano a Brescia nelle fonderie e che venivano in quel periodo della festa a spacciare, a spacciare per pagarsi, non ce la facevano con lo stipendio a tornare a casa, per pagarsi il ritorno a casa. Ora, di fronte alla plasticità di questo modello di sfruttamento che ti mette prima in fonderia, poi però non ce la fai perché non ci arrivi e arrivi a, come dire, a queste forme di autogestione del ritorno a casa, no? Magari per costruirsi una casa, adesso non lo so perché, no? E dei conflitti che ne nascono. La risposta banale è drammatica, nel senso che poi nella crisi tutto questo si amplifica, diventa dirompente. A me ha colpito molto anche la risposta banale, è soprattutto semplicemente perdente, perché è già data. Cioè è dentro il, come dire, la politicizzazione dei dispositivi di controllo. Questa c'è già, è già data. Quella dinamica lì, appunto, ha le sue voci, i suoi think tank, la sua produzione ideologica, la sua propagazione comunicativa. Siamo partiti a Roma fa schifo per osservare come si muovono, diciamo, anime del centro-sinistra di questa città, no? A catturare un flussi di consenso che noi diamo presuntamente a destra. Questa cosa è già data, inseguirla significa ratificare la propria irrilevanza. Questo è il punto vero. Poi hai voglia di parlare, diciamo, di protagonismo e di riconoscimento nel territorio. Insomma, si finisce nella filmografia dell'odio dall'altra parte, insomma, di quell'orizzonte lì. Almeno l'odio, quello originale, quello di l'odio, vedeva, come dire, una composizione multietnica e si saldava, insomma, non so se ti ricordi la nonna quando dice, certo. Si comincia così, si comincia a bruciare le scuole e non si va più in sinagoga, per cui c'era l'arabo, l'ebreo nella ballè, insomma. Ma il punto è che le nonne esistono ancora e temo che, diciamo, siano più lucide dei controdispositivi politici che evidentemente siamo in grado di mettere in campo. Questo è grave, perché io penso che invece una intelligenza non solo delle nonne, insomma, della vita, delle forme di vita metropolitane sia rilevabile, nucleabile, intercettabile, però bisogna scegliere appunto quali sono le proprie priorità. Se no finiamo nella denuncia dei capelloni come negli anni 60, i capelloni dei Trastevere, sì, che portavano l'hashish, ti ricordi Filmerino Manfredi? Siamo alla denuncia del sesso disturbante, insomma, non so, cioè, dal libero amore al sesso disturbante. No, non so che cosa più, insomma, no? Però insomma, cercare di rimasticare proprio tutto quello che mediaticamente è già propagato ed è già disposto politicamente non ti porta da nessuna parte, nemmeno nel calcolo politico. Bisogna che lo si sappia, nemmeno nel calcolo politico porta da nessuna parte, porta solo all'irrilevanza. Ma le imitazioni non vincono mai, non hanno mai successo rispetto agli originali. Qua c'è l'originale, diciamo, è già composito, spurio e complesso ed è tutto in campo, quindi veramente questa è la sconfitta, bisogna, no, io non sarei così pessimista, però è la sconfitta dal punto di vista linguistico, sto dicendo, no? Quindi questo modo, diciamo, di raccontarsi le cose è la sconfitta dal punto di vista linguistico. Sarebbe più opportuno invece assumere, esplicitare, dibattere sulle sconfitte reali, sulle sconfitte, diciamo, materiali, che evidentemente, insomma, segnano il limite della comunicazione, del rapporto orizzontale con il territorio, con le soggettività reali, e ripartire da lì. Guarda, io ti ringrazio, poi però non abbiamo più tantissimo tempo. L'ultima cosa, abbiamo fatto la settimana scorsa, a partire da quella discussione che è nata intorno a Amburgo, alla vicenda del centro sociale di cui adesso mi sfugge il nome, il Rodeflora, e anche lì tutto un dibattito sulla gentrificazione, sul ruolo, certo, diciamo, come dire, delle culture antagoniste nel promuovere come dire, le nuove forme di cooperazione del capitalismo 38.25 come sigla, no, nel senso che comunque è un dibattito interessante, nel senso che secondo me va portato avanti. Noi ti ringraziamo per l'intervento e magari ci diamo appuntamento per un'altra volta in cui sulla prima parte del discorso, cioè su chi fa determinate operazioni e che collegamenti ha, si può entrare un po' più nel merito, no? Cercando di capire un po' meglio di che cosa si tratta. Grazie va e bene, alla prossima. Ciao, grazie a voi, arrivederci. E niente, noi sempre lo 06 49 17 50 è sempre libero per chi volesse intervenire, i temi sono questi, li abbiamo messi, come dire, sul piatto. Ci sentiamo un pezzo musicale che non abbiamo scelto e ce ne sarebbe da scegliere, ce ne sarebbe parecchi, ma prima del pezzo musicale, se posso, vorrei appuntare l'attenzione su un brano dell'articolo di cui si sta parlando, all'Huffington Post, che avete in qualche modo toccato ma non approfondito, perché ci tengo particolarmente. È quello che la Eduati, che è l'articolista, insomma, chiama il terzo paradosso di San Lorenzo, cioè quello che sarebbe il paradosso culturale. Si scrive: l'arrivo di giovani stranieri impiegati dalla criminalità o gestori di piccoli bar, che evidentemente è la stessa cosa, fa uguale. Ha messo a dura prova la tradizionale apertura verso i migranti. Io credo che in Italia tradizionale apertura non ce ne sia, però questa, insomma, è una mia idea. E si arriva, appunto, poi si parte con dei virgolettati che vengono attribuiti a una voce degli Assalti Frontali, come si diceva prima, in cui si parla, appunto, si dice in uno di questi virgolettati: le ragazze di sinistra guardano con estrema diffidenza lo straniero perché costantemente vittime di molestie sessuali, si scopre che sono maschilisti. E poi si dice: il clash esplosivo si era manifestato con un episodio che all'epoca aveva fatto scalpore proprio dal 32 via De Voci. Nel settembre del 2012 un gruppetto di romani aveva apostrofato e minacciato con insulti razzisti tre africani giunti per l'inaugurazione del circolo Arci Darfur. Da questi microfoni ne avevamo parlato ampiamente. Allo stesso tempo le ragazze del centro sociale femminista 22, si scrive, a parte che, appunto, dei centri sociali, che siano femmine o maschi, sempre ragazzi sono, nessuno è mai adulto, poi sempre centri sociali, sì. Centri sociali, qualunque buco è diventato un centro sociale, sì. Non si può far meno di fare un centro sociale. Le ragazze del 22 di via De Volsci hanno spesso denunciato attentati e scritte sessiste sulla porta dell'associazione. A me quello che mi preme molto dire è che le ragazze del 22, insieme a tante altre ragazze, in questi anni hanno chiarito in maniera molto chiara, molto molto molto esplicita, il fatto che il sessismo, il maschilismo non ha passaporto, che non c'era bisogno di aspettare i gestori di piccoli bar o impiegati alla criminalità organizzata venuti da altri paesi per avere manifestazioni di sessismo e di maschilismo, mentre in questo articolo sembra che a San Lorenzo questo sessismo sia arrivato da fuori si ricollega quello, insomma, alle bombe carta, al 22 di via De Volsci, eccetera, a questa invasione straniera. Questo è veramente quanto di più falso, ma anche strumentale, si possa dire. Ci sono state campagne che sono durate anni in questo paese, in cui si è tentato di usare un tema molto forte e molto reale, cioè quello della violenza maschile sulle donne, per fare propaganda razzista, perché questo è successo. Il caso grosso fu nel 2007 con l'omicidio di Giovanna Reggiani e le politiche del sindaco Beltroni, l'espulsione dei rumeni. Ci vinse le elezioni, l'Alamanno ci vinse le elezioni sulla capacità di, come dire, costruire questo meccanismo di cattura, rispetto al quale noi abbiamo, al di là del fatto che vinse contro una posizione politica che non ci piaceva, il meccanismo ci vide perdenti da un punto di vista, ma non della competizione elettorale, proprio della capacità di costruire senso, nel senso di senso comune. E ora, però, qui 7 anni dopo si torna a dire, appunto, che bisogna proteggere le nostre donne, diciamo, quello davanti che va sottolineato uomini. Però che se un passato era una classica contrapposizione dinamica destra sinistra, destra reazionaria forcaiola, un po' un razzismo de bassa lega, tanto per acimolare un po' di voti, campagne partite anche da giornali come La Repubblica e via dicendo. Qui siamo proprio a un approfondimento, qui c'è la necessità di disciplinare i corpi, siano essi maschili e femminili, in particolar modo i corpi degli immigrati che creano ricchezza dentro questo paese e che devono stare al loro posto. Noi non amiamo i bottegai italiani, ma manco quelli bengalesi, manco quelli magrebini, poi non amiamo i bottegai, ma adesso non è che tutti i bottegai sono uguali, diciamo, però non è che la nostra figura di elezione, quella del piccolo imprenditore, però accettare che ci sia, come dire, una discriminazione da questo punto di vista anche palesemente falsa, nel senso che in realtà il traffico dentro questi quartieri, il traffico di alcolici da questo punto di vista, di cui sembra che il vomito è diventato il problema, prima era la cacca dei cani per le strade, adesso il vomito è diventato il problema principale, e lo è come problema, nel senso che poi comunque conviverci non è facile, si è alimentato da la piccola vendita sottobanco dei negozi dei immigrati che stanno aperti fino a tardi, non dalle decine e decine dei locali gestiti da italiani, da imprenditori che poi siano italiani, bengalesi, ma pieno, di cui San Lorenzo è piena, e che fa della fiera dello sciottino appunto il punto d'arrivo. Forse c'è una telefonata, adesso sentiamo un attimo, però insomma il punto era più o meno questo, noi ci avviamo a concludere, se la telefonata non è per la diretta concludiamo qui, ma non smettiamo di parlarne, ne riparleremo sicuramente domani, ne riparleremo sicuramente sabato. È tutto per oggi, speriamo di non avervi come al solito annoiato troppo.